Pensateci. Chi era il vostro migliore amico da ragazzi? È ancora il vostro migliore amico? Siete in contatto? O il tempo ha cambiato le cose? Li ha cambiati entrambi finché non avete perso la vostra amicizia e quello che la rendeva speciale? Avevo degli amici. Sono stato felice. E non volevo che finisse. Avrei voluto che quei giorni durassero per sempre. Da quando dici, noi due dovremmo essere amici. Prova a contare fino a 10 e dimmi se in questi anni hai fatto cose buone oppure hai fatto danni. Bugie ed inganni, prova a metterti tu nei miei panni. Ci vediamo una volta l'anno, mi mandi un SMS per il compleanno. Magari ci sentiamo a Capodanno, se le linee non cadranno. Potresti essere reale, per te è normale farti sentire solo a Pasqua oppure a Natale. Saluti e baci, rinnoviamo le promesse come seguaci. Una volta eravamo soci, mentre adesso hai fatti i soldi e te ne compiaci. Io del passato ne raccolgo i cocci. Tempo fa eravamo pappe e ciccia, per te ho preso calci in faccia, quelli come te tutta gendaccia. Non è una sorpresa se mi hai chiamato, è perché sicuramente ti serve il mio aiuto. Lo sai che penso al peggio, siamo ad aprile e non ti sentivo da maggio. Se non l'hai capito, la mia amicizia non la puoi comprare. Ho dei principi, cosa ci vuoi fare? Per quanto mi riguarda stai perdendo solo tempo. Fai danni come il vento quando soffia sull'incendio. Ma tu sei giunta come tanti, falso come pochi, sei giunta e te ne vanti, e te ne vanti. Sei falso e quindi giochi, ma tu sei falso come tanti. Ancora d'amicizia, ma la confondi con furbizia. Non voglio pensare che non chiami per pigrizia. Arriverà il tuo turno, chiuderò la porta e mi farò giustizia. Non è la corona, se pensi di sottomettermi sbagli persona. Ma per fortuna esiste ancora l'amicizia buona. Non la tua, ma quella che funziona. Ci sono persone tutto cuore, che quel che fanno, lo fanno solo per amore. Quello sincero, quello più profondo e vero. Quello senza sclero, quello di cui vado fiero. Per esempio prendi Marco, con lui mai avuto un battibecco. Mentre con quelli come te le mie ferite leggo. Tutti abbiamo dei problemi con diversi temi. Quelli più seri non vinceranno Montepremo. Ma tu sei giunta come tanti, falso come pochi, sei giunta e te ne vanti, e te ne vanti. Sei falso e quindi giochi, ma tu sei falso come tanti, giuda come pochi, sei falso e te ne vanti, sei giunta e quindi giochi, e quindi giochi. Come on, come on, come on, come on, come on. Se ascolto te, è accaduto tutto in questo mese. A cambi scuse accompagnate da mille pretese. Ho un sesto senso, mi sembra tutto un controsenso. Ti servo a poco, se non funziona il doppio gioco. Il gioco è bello quando dura poco. Tu lo fai da anni e non hai capito il gioco. In più vi definite amici, volete metterlo nel culo a me per essere felici. Io taglio i ponti senza sacrifici, stavolta sono io che ne traggo benefici. Ma tu sei falso come tanti, giuda come pochi, sei falso e te ne vanti, sei giuda e quindi giochi, giuda come tanti, falso come pochi. Ma tu sei giuda come tanti, falso come pochi, sei giuda e te ne vanti, sei falso e quindi giochi, ma tu sei falso come tanti, giuda come pochi, sei falso e te ne vanti, sei giuda e quindi giochi, rest in peace, amico.